Zero. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, breve, brava. Brava, breve. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene... Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei. Con Imu e Yuk sono giacciuc. La tia per mia zia. La tari ci brucia i denari. Giro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bene, sì, cominciamo con il conto alla rovescia perché il 16 ottobre è proprio dietro l'angolo. Dopo settimane di navigazione a vista, pare che finalmente ci siamo. I comuni sono quasi tutti pronti, anche se in molti se la sono presa comoda, a farci sapere quanto pagheremo entro la prima metà del prossimo mese di acconto TASI, la tanto dibattuta tassa sui servizi indivisibili. Eh sì, una tassa che ha avuto un percorso davvero travagliato, anche se per la verità in qualche comune l'acconto è stato pagato a giugno, certo. Vero Deborah? Sì. Ma la gran parte dei comuni italiani ci ha messo tutta l'estate per fissare le aliquote. Insomma, se la sono presa comoda, ma ora dovrebbero essere tutti pronti. Lo speriamo, oggi lo scopriremo insieme ai nostri ospiti, ma vi segnalo già che domani il Sole 24 Ore pubblica un dettagliato tabloid con tutte le informazioni sull'universo TASI. Le aliquote comune per comune, i criteri di pagamento, le differenze a seconda delle caratteristiche dell'immobile di proprietà, le criticità di questa tassa che ancora continua a far discutere. 800 24 00 24 è il numero verde per tutte le vostre domande. Oggi ne parliamo con Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, con l'esperto di questioni fiscali per il Sole, Luigi Rovecchio. Ma oltre alla TASI, che è un vero rompicapo, ci sono altre tasse che pesano sulla nostra testa, anzi nella nostra testa sarebbe più corretto dire, dato che parliamo di mal di testa. Ne esistono diverse forme: c'è la cefalea tensiva, quella grappolo, le emicranie. I medici si sono sbizzarriti a trovare anche nomi curiosi: a rombo di tuono, da attività sessuale, ipnica, da tosse, da odogo, dinamite. Ma se a tutti è chiaro che la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, non tutti quelli che soffrono di mal di testa, e dal mal di testa ahimè vedono limitare sensibilmente la loro qualità di vita, hanno ricevuto una diagnosi chiara del loro problema, che è la condizione fondamentale per poi trovare una soluzione. Questo lo diciamo sempre. Così, mentre Deborah vi dirà quanto e quando dovrete pagare per la TASI, io vi aiuterò a capire di che mal di testa state soffrendo. Per fortuna non ci sono moduli da compilare, soldi da versare, ma un numero verde a vostra disposizione: 800 24 00 24. Chiamateci, attenzione, per descrivere il tipo di dolore, quando insorge, dove si localizza, per quanto tempo dura e a quali sintomi solitamente si associa. Quindi queste cinque indicazioni. Il nostro esperto, il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, che sarà in linea con noi a partire dalla seconda parte del programma, vi aiuterà a capire di più, a non perdere, come si dice, la testa. Trise, tari e tasi. Che tra sembrano delle malattie. Chi li ha scelti i nomi? Luciano Onder? Che cosa è la trise? È vero che se non curata può degenerare in tasi? Questo continuo acuirsi della trise taritasi può provocare l'ingrossamento della prostata, la famosa prostatatasi. Un classico di Maurizio Grande, Crozza, peraltro io lo adoro. Un intervento proprio da cuore denari, direi, no? Sì. Perché associa questioni fiscali con le questioni di salute. Detto questo, tante domande, forse non proprio di questo tipo, ma se le fanno in tanti dei nostri ascoltatori. Almeno una certezza ce l'abbiamo, e cioè che entro il 16 ottobre la TASI va versata. Ma le aree grigie attorno alla tassa sui servizi indivisibili non mancano certo, lo sappiamo bene. Di certo la pagheremo se abitiamo in uno dei comuni che entro il 10 settembre hanno inviato le delibere al Dipartimento delle Finanze, secondo quanto prevede l'attuale normativa del tributo. Cristiano Dell'Oste, quali sono però ancora, se ci sono, le zone grigie o le aree di indeterminatezza del prelievo, secondo come le chiama il Sole 24 Ore? Buongiorno a tutti intanto, ma diciamo che al momento la difficoltà più grande per quanto riguarda la TASI è andare a capire effettivamente chi e quanto deve pagare, per quale ragione, perché parliamo di un tributo che ha una grande che lascia diciamo grande autonomia ai comuni, quindi bisogna innanzitutto verificare se il proprio comune ha deliberato, perché se il comune non ha deliberato si andrà a pagare tutto a saldo il 16 dicembre e non si dovrà pagare nulla entro il 16 di ottobre. Questo è il primo punto, però quando anche la delibera c'è bisogna andarsela a guardare con una certa attenzione, perché noi sappiamo che praticamente l'80-85% dei comuni che hanno deliberato fanno pagare la TASI sulle abitazioni principali. La definizione è proprio quella di abitazione principale che valeva già l'anno scorso per l'IMU. In questo senso non è cambiata, almeno nella parte centrale della definizione. Ecco, quindi è la casa in cui il proprietario e la sua famiglia hanno la dimora e la residenza anagrafica. Detto questo però ci sono molti comuni, soprattutto quelli piccoli, che applicano la TASI anche su altri immobili, quindi ad esempio sui fabbricati rurali strumentali, cosiddetti fabbricati agricoli, quindi cascine, stalle e così via, ma anche sulle seconde case, sulle case affittate, sulle case sfitte, sugli immobili di impresa. Ad esempio sul Sole 24 Ore di oggi ricordiamo che più di metà dei comuni che hanno deliberato, il 53% per la precisione, applica la TASI anche sugli immobili delle imprese. In questo caso la TASI diventa una vera e propria addizionale all'IMU, perché si applica sulla stessa base imponibile, ha semplicemente un'aliquota diversa, ma la base su cui si calcola è la stessa, e però questo complica un po' la vita ai contribuenti, perché abbiamo due imposte sulla stessa base imponibile con date di versamento diverse, perché l'acconto dell'IMU l'abbiamo pagato a giugno, ci ricordiamo, ma adesso al 16 ottobre paghiamo l'acconto della TASI e poi al 16 di dicembre pagheremo insieme saldo di TASI e IMU. Esattamente, il saldo di TASI e IMU, attenzione, con codici tributo diversi, quindi diciamo bisogna stare attenti da questo punto di vista a non pensare, come fanno molti, lo vediamo anche da quello che ci scrivono i lettori, che la TASI sia soltanto la nuova IMU sulla prima casa. Assolutamente. In genere è così, ma non sempre. Senti, quanti, se è possibile stabilirlo, comuni mancano ancora all'appello, e quelli che mancano all'appello presumibilmente non la faranno pagare la TASI, cioè si sono ritardati fino ad ora proprio per il motivo che hanno l'obiettivo di non applicarla? No, attenzione, all'appello mancano alcune centinaia di comuni, però c'è una clausola che possiamo chiamare di salvaguardia prevista dalla legge, per cui se il comune non ha deliberato si paga il 16 di dicembre con l'aliquota dell'1 per 1000 prevista dalla legge statale, quindi i comuni che non hanno deliberato sono o comuni che non hanno fatto in tempo o comuni che semplicemente hanno ritenuto che l'1 per 1000 per loro fosse sufficiente, adeguato come importo, e quindi si sono attenuti in qualche modo allo standard di legge. Ecco, ad esempio tra i capoluoghi di provincia, giusto così per dare qualche spunto, abbiamo soltanto Ragusa e Olbia che non hanno applicato proprio la TASI sull'abitazione principale, poi ce ne sono alcuni che hanno applicato la TASI a scaglioni, quindi hanno di fatto esentato solo alcune case e non le altre, quindi non tutte le prime case sono esenti, e poi abbiamo Crotone e Enna che invece non hanno proprio deliberato, quindi questi sono due capoluoghi in cui si andrà a pagare, certo, al dicembre con l'1 per 1000. 800 24 00 24 per formulare i vostri quesiti su questo tanto dibattuto tributo. Leggo un messaggio, il primo che ci è arrivato questa mattina, che è quello di Giulia, che abita a Belgioioso, provincia di Pavia, e ci racconta che il suo commercialista non le ha ancora fatto sapere nulla. Luigi Rovecchio, vengo a lei perché Giulia interpella direttamente la sua categoria, ma insomma non facciamo un po' prima magari ad informarci presso il comune intanto se è stato deliberato il tributo, e poi magari a voi poi così assegniamo un po' il compito di farci il calcolo di quanto dobbiamo versare o meno, tanto i tempi stanno correndo velocemente. Sì, il problema è... Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. Anche a lei. Il problema è, come diceva Cristiano prima, che le delibere vanno interpretate e quindi diciamo il contribuente che non ha conoscenze specifiche in materia tributaria non sempre ce la fa a prendere la delibera, la legge, la capisce e poi chiede al commercialista di fare il conto, ma ha bisogno del commercialista per decifrare la delibera, per cui da questo punto di vista comprendo i colleghi che sono in grave difficoltà, anche perché voi immaginatevi uno studio professionale che abbia a che fare con 1000 comuni, con 800 comuni, come si ricordava prima, ogni comune si è un po' sbizzarrito con la TASI, quindi non posso utilizzare dei cliché, dei format, dei facsimile per che vadano bene per qualunque tipo di calcolo, devo prendere la singola delibera e leggerla, e quindi è difficile per il contribuente fare da sé. E poi c'è anche l'ulteriore complicazione, ammettendo di avere dei proprietari immobiliari che hanno dato in affitto questi immobili, lo vecchio, qua, come dire, la questione si complica ulteriormente perché bisogna stabilire appunto in che misura percentuale pagano entrambe le parti, e come titolava il Sole 24 Ore domenica, questa TASI sembra proprio essere impossibile per gli inquilini. Perché? Perché diciamo che è molto difficile, e farei un'altra precisazione, che in realtà che è una semplificazione giornalistica dire che la TASI la pagano gli inquilini, perché la norma parla di detentori, che è ancora peggio, significa qualunque soggetto non proprietario che utilizzi di fatto un immobile. Quindi quali altri profili ci possono essere? Per esempio i casi che ha fatto anche Cristiano Dell'Oste tempo fa, su lunedì di qualche tempo fa, la badante, faceva il caso della badante che aveva la residenza anagrafica assieme al soggetto assistito. Dai. La badante non aveva né un contratto di locazione, né un contratto accomodato, né altro, era lì semplicemente per lavorare. Ecco, la badante è soggetta passiva TASI. Quindi teoricamente dovrebbe pagarla? Formalmente il comune aveva ragione, il comune aveva perfettamente ragione, quindi la badante deve pagare questo 10%, ma io dico anche il caso del convivente. È una specie di tassa di soggiorno per la badante, sì. No? Quella che paghiamo quando andiamo negli alberghi. Ma incredibile. Solo che non la paga solo la badante, che la paga anche il soggetto assolutamente residente, normalmente residente. Diceva anche il convivente, esatto. Facevo l'esempio del convivente, pensate alle migliaia di coppie di fatto, quindi siamo due soggetti, viviamo insieme, io sono proprietario dell'immobile, il mio compagno o la mia compagna vive insieme a me, quello è un detentore e quindi teoricamente dovrebbe pagare dal 10 al 30% della TASI a seconda di quello che ha deliberato il comune. Cioè è evidente che è un tributo che ha delle specificità e delle complicazioni. E che forse io mi azzardo a dire che questo non era il momento per fare delle sperimentazioni tributarie in materia di fiscalità immobiliare. Col momento che stiamo vivendo, credo che l'ultima cosa che si dovesse fare era una sperimentazione. Infatti qua la pagavano i proprietari, magari mettendosi d'accordo in via privata con gli inquilini, non lo so, qua la dico in libertà. Però un ascoltatore sempre di Pavia ci scrive: mio suocero abita... Certo che bisogna però essere bravi a ingarbugliare così le cose. Mio suocero abita a Pavia in una casa in affitto. Leggendo sul sito del comune si capisce che qualunque inquilino di abitazione civile non debba pagare la TASI. È corretto? È possibile che qualche comune abbia disciplinato così lo vecchio? Non ho capito cosa ha detto. Qualunque inquilino di abitazione civile non debba pagare la TASI. È corretto? Allora, è perché lo ha stabilito questo comune, non perché lo dica. Sì, allora, molti comuni hanno azzerato la quota a carico degli inquilini. Io sono convinto che questa delibera sia illegittima, nel senso che o decido di applicare la TASI solo a determinate tipologie di immobili, l'esempio classico, quello che si faceva prima, applico la TASI solo all'abitazione principale, allora a questo punto gli immobili locati sono fuori. Oppure, se non decido una cosa di questo genere, non posso azzerare la quota dell'inquilino, ma questo è un discorso di illegittimità della delibera che direi lasciamola fare ai giuristi. Non c'è dubbio che il contribuente che si è letto la delibera, che sia legittima o non sia legittima, se c'è scritto testualmente che non deve pagare, lui ha diritto a non pagare. Carta canta. Poi si vedrà chi risponderà di questo minor gettito. Allora andrei a sentire i nostri ascoltatori. Vediamo. Che stanno chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, ma state anche scrivendo molti messaggi. Potete... mal di testa, poveretti, gliel'abbiamo anche fatto venire, mal di testa. Ci credo. Ma noi l'abbiamo fatta apposta, TASI e poi Dan, scoppia il mal di testa e c'è il nostro numero verde. Ma andiamo a Roma, c'è Angelo che ci aspetta, benvenuto. Benvenuto a voi e grazie di tutto, complimenti. Grazie. Ho un piccolo dubbio, io ho una casa, seconda casa, 25%, l'altro 75% è mia madre. Devo pagare sia l'IMU più la TASI o solamente l'IMU del 11,4%? Angelo, grazie. Cristiano, a Roma che cosa è successo? No, perché qua, siccome abbiamo chiarito sin dall'inizio che ogni comune ha, come dire, totale libertà nel disciplinare la questione. Sì, in realtà possiamo cogliere l'occasione per ricapitolare un pochino cosa succede, perché qual è il discorso per quanto riguarda le aliquote TASI? Facciamo bene il punto, perché sull'abitazione principale il comune può arrivare fino al 2,5 per mille di base, senza avere obbligo di introdurre particolari detrazioni. Per chi non sa nulla, il 2,5 per mille di che cosa? Della stessa base imponibile che usavamo per l'IMU, quindi del valore catastale dell'immobile, per intenderci. Perciò si prende la rendita catastale, la si rivaluta del 5% e la si moltiplica diciamo, il risultato così ottenuto per 160, che è il coefficiente aumentato dalla manovra Monti, prima si faceva per 100, per intenderci. Dopodiché però cosa succede? Che i comuni hanno la possibilità di giocarsi un ulteriore 0,8 per mille di aumento extra e possono dividerlo tra l'abitazione principale e le altre categorie di immobili, oppure anche addossarlo interamente a una di queste due tipologie, tutto sull'abitazione principale e tutto sugli altri immobili. Questo spiega perché l'aliquota massima, per così dire, dell'abitazione principale può diventare 3,3 per mille se lo mettono tutto sull'abitazione principale, oppure perché vedo che sorridi, ma purtroppo Noi siamo incantate dalla preparazione. No, ma anche dalla complessità della questione. Oppure se lo si addossa tutto sulla categoria altri immobili, qui sappiamo che il massimo dell'IMU è 10,6 per mille, andiamo ad aggiungere uno 0,8 ed ecco che il massimo teorico diventa 11,4 per mille. Questo è il ragionamento, questa è la questione. E questo sarà un bel taglietto che noi metteremo sul sito, rimandando poi al tabloid domani del Sole 24 Ore. Perfetto, ma rispondendo appunto ad Angelo, che ha questa proprietà di una seconda casa suddivisa al 25% la sua proprietà, al 75% di sua mamma. Secondo te che cosa succederà? Come dovranno suddividersi? Allora, semplicemente in questo caso vale, come dire, lo stesso principio generale che valeva per l'IMU, cioè ogni proprietario in linea di massima paga l'imposta in relazione alla propria quota parte. Quindi se io abito in una casa che possiedo al 25% e per me è abitazione principale, io sul mio 25% pago la TASI, sempre che il comune l'abbia introdotta. Sul restante 75% mia madre, che considera quella casa come seconda casa, pagherà l'IMU, sempre che il comune non abbia istituito poi anche la TASI sulle seconde case, nel qual caso pagherà anche la propria fettina di TASI sulla seconda casa. Maurizio D'Alessandria scrive: se abito in una zona dove il comune non dà nessun servizio, per quale motivo devo pagare la tassa sui servizi? Magari non ci saranno delle grandi illuminazioni, ma che ne so, le fognature comunque passano, no? Cristiano, che cosa significa non avere alcun servizio? Ecco, questo è un altro degli equivoci della TASI, nel senso che la TASI è nata come tassa sui servizi indivisibili e i comuni nelle delibere, in molti casi lo fanno, quasi sempre lo fanno, elencano proprio i servizi indivisibili per i quali la TASI serve come fonte di finanziamento, quindi l'illuminazione, la polizia municipale, il verde pubblico e così via. Questi sono servizi cosiddetti indivisibili perché, diversamente ad esempio dagli asili nido, non si può farli pagare a chi ne beneficia, perché del verde pubblico ne beneficiamo tutti, poi c'è chi ci va di più, c'è chi ci va di meno, ma voglio dire, in generale i giardini pubblici sono lì per tutti. Però non è che c'è una rispondenza diretta, quindi questo è un tributo che serve a coprire questi servizi. Dopodiché ci può essere il comune che, come dire, in modo analitico individua i servizi, ci può essere quello che non lo fa, ci può essere il cittadino che vive in una zona, appunto, magari lontanissimo dai giardini pubblici, con scarsa illuminazione e così via. Però il presupposto dell'imposta, perché poi dobbiamo andare a vedere cosa dice la legge, è possedere gli immobili che possono essere assoggettati al tributo, che sono più o meno tutti, a seconda della scelta dei comuni, con l'unica eccezione dei terreni agricoli. Questo dobbiamo dirlo, perché non si paga la TASI sui terreni agricoli. Allora adesso è tempo di andare a sentire i mercati, però mia vorrei bella anche capire, donna di denari, perché a noi a Milano ancora nessuno ci ha fatto sapere niente, perché abbiamo pagato la Tari Ma sulla Tasi, ancora, Cristiano, c'è un po' di grigio? E diciamo di sì, anche perché sulla Tari la maggior parte dei comuni invia a casa il bollettino. Sulla Tasi questo non succede e non succederà, non facciamoci troppe illusioni. Allora poi ci dici che cosa dobbiamo fare per chi non riceve nulla a casa. Cuore e denari. Servo a casa, serve solo per il mio mal di testa. Tornare da Milano all'ora di punta, serve solo per il mio mal di testa. La Tasi, il rompicapo del momento. 800 24 00 24 per intervenire in diretta e schiarirvi le idee, ma lo stesso numero potete utilizzarlo per togliervi un peso dal cuore, trovare l'origine del vostro mal di testa. Anche questa è una tassa per molti italiani, per alcuni quotidiana. Secondo l'OMS il mal di testa, pensate, è la malattia più diffusa del mondo e l'emicrania è la settima malattia più disabilitante del genere umano. In Italia sono 15 milioni le persone che soffrono di mal di testa, quindi Deborah, aspettiamoci qualche telefonata, perché sono grandi numeri ma poche sono le diagnosi. Eppure io voglio ricordarlo, l'Italia è da sempre leader mondiale della ricerca sul mal di testa. Allora oggi, oltre a dirci il comune in cui risiedete per controllare se vi tocca la Tasi, diteci quando la testa vi scoppia, dove si localizza il dolore e quanto dura. Ci sono delle novità molto interessanti. Attraverso infatti la stimolazione elettrica di alcuni nervi della testa e del collo, senza alcun intervento chirurgico, si potrebbero ridurre sia l'intensità che la durata del dolore, e quindi riducendo in modo significativo l'utilizzo di farmaci. Di questa nuova frontiera, chiamiamola così, di cui si è parlato la scorsa settimana al Congresso europeo delle cefalee di Copenaghen, che ha riunito i massimi esperti in materia, ci aggiornerà nella seconda parte della trasmissione il professor Piero Barbanti, che ci aiuterà anche a capire di che tipo di mal di testa soffriamo. Tosse! Tosse! Bellissime, adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Questa è buona. Sì. E chissà che cosa ne penserebbe Robin Hood di tutta questa storia della Tasi, un vero e proprio ginepraio di regole e di scadenze che finisce per disorientare i contribuenti. Allora, 800 24 00 24 per parlarne con noi, con Cristiano Dell'Oste e Luigi Lovecchio. Subito una domanda a Luigi Lovecchio, poi andiamo ai quesiti degli ascoltatori al numero verde. Lovecchio, ci dia un suggerimento professionale pratico per andare a colpo sicuro nel tentativo di capire quando e quanto devo pagare. Devo andare a bussare alla porta del sindaco oppure posso avere subito l'informazione in qualche altro modo? Poco fa Cristiano Dell'Oste mi ha suggerito di aprire il sito del Ministero delle Finanze, c'è proprio un link aliquote Tasi, e dopodiché che faccio? Sì, ovviamente la prima cosa che va fatta è proprio questa, cioè leggere la delibera con attenzione, eventualmente procurandosene, ovviamente se uno ha tempo non deve verificarne tantissime o quant'altro, verificare proprio il testo integrale della delibera. Si vede dal sito, si capisce che tipo di delibera è stata adottata, se ci sono dei dubbi si contatta il comune, perché attraverso la lettura della delibera, come si ricordava prima, siccome moltissimi comuni hanno applicato la Tasi solo sull'abitazione principale, e allora attraverso la lettura della delibera molte fattispecie vengono automaticamente escluse. Se io non sono proprietario di un'abitazione principale non ho un problema Tasi. Dopo che ho verificato la delibera, allora necessariamente devo interpretarla e applicarla. L'applicazione l'ha ricordata Cristiano prima, quindi la base imponibile e quant'altro, e lì possono naturalmente nascere delle difficoltà nella interpretazione della delibera, e direi che le difficoltà sono due: l'individuazione corretta dell'aliquota, perché i comuni si sono spesso divertiti a fare una moltitudine di aliquote, ma soprattutto le agevolazioni. Ecco, insomma, bravo, infatti, bravo. Vada un po' lì subito, come dire, questa buona notizia per il contribuente, no? Che era una domanda anche prevista nella nostra scaletta. Per l'IMU c'era questa detrazione di 200 euro. Sì, nella TASI non esiste niente previsto dalla legge. Bene. Tutto disciplinato dal comune. Ci sono comuni che potrebbero non aver deliberato nessuna agevolazione, comuni che invece hanno deliberato l'agevolazione. Quelli che hanno deliberato le agevolazioni lo hanno fatto essenzialmente in favore dell'abitazione principale. Il punto è però che molte di queste agevolazioni sono a dir poco cervellotiche, sono detrazioni a scaglioni in funzione del valore della rendita. Alcuni comuni, anche importanti dell'Emilia Romagna, hanno fatto delle vere e proprie operazioni algebriche per fare il conteggio. Cioè, io per sapere qual è la mia detrazione devo fare una proporzione e all'esito di questa proporzione riesco a capire qual è la mia detrazione. Cioè sono detrazioni che probabilmente costano più per l'applicazione di quanto poi se ne ricavi come beneficio. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. 349-238-6666, continuate a scriverci e vi ricordiamo che se la vostra domanda non arriva ai nostri esperti, sì, potete sempre mandarci un'email, siamo sempre aperti. E andiamo a Napoli, perché c'è Massimo che ci aspetta. Buongiorno e benvenuto. Che tra l'altro vuole fare un quesito che ci dà un assist per un'altra domanda, Massimo. Quindi stavo facendo tutto questo ragionamento cervellotico. Meno male, Massimo, ecco, che è arrivato. Grazie. Ci racconti. Grazie, grazie a voi di avermi dato questa possibilità. Volevo chiedere questo, faccio l'esempio pratico per essere più incisivo, diciamo, dettagliato. Bravo. Esatto. Allora, io sono nudo proprietario di un appartamento di cui sono usufruttuari i miei genitori. La TASI che si deve pagare la pago al 90% io e al 10% i miei genitori, o io pago la tassa intera e i miei genitori mettono un 10% aggiuntivo? Perché bisogna capire se l'usufruttuario equivale, non so Cristiano se ti vuoi cimentare tu, vado a Luigi Lovecchio, equivale all'affittuario Lovecchio. Lei come la vede questa situazione di Massimo? Diciamo che non avrei dubbi, perché almeno le cose che possiamo chiare chiariamo. Sì. Allora, pagano solo gli usufruttuari e pagano il 100% della TASI. Il nudo proprietario scompare. Ma questo è un caso veramente paradossale, perché qua comunque c'è di fatto una proprietà. No, allora, è una situazione già vista ampiamente nell'IMU, nell'IMU è esattamente la stessa cosa e il criterio è quello, cioè il concetto di fondo è che il diritto connesso alla nuda proprietà è un diritto che non dà il possesso vero e proprio dell'immobile, certo, perché il presupposto della TASI è possesso o detenzione. Nel nostro caso il possesso qualificato, inteso come possesso che corrisponde ad un diritto reale, ce l'hanno solo gli usufruttuari. Quindi saranno solo gli usufruttuari che verseranno il 100% dell'imposta. Benissimo. Allora, a proposito ancora di inquilini, una domanda veloce magari a Cristiano, c'è qualche ascoltatore che chiede chi stabilisce la percentuale di competenza dell'inquilino. Mi pare che lo stabilisca la legge, c'è un range, no, che arriva fino al 30%. Funziona così, il comune può fissare la quota a carico dell'inquilino o, come ricordava giustamente prima Luigi Lovecchio, del detentore, se vogliamo essere più precisi, e può collocarsi tra il 10 e il 30%. Se il comune non stabilisce nulla, perché si dimentica o perché ritiene di non deliberare, allora la quota è il 10%. Quindi questo è il range. Tra l'altro il CAF ACLI, che ha fatto per il Sole 24 Ore una serie di elaborazioni, ha anche visto che in media questa quota è nell'ordine del 21% e rotti. Quindi ecco, i comuni, certo, sono più o meno... Non è che la potevano fare rotonda, no? No. Beh, no, è la media, è la media. Attenzione, è la media di molti comuni. No, no, chi la fa, la fa sempre, diciamo, rotonda. 10, 20 o 30, ottimo, ecco, perché qui c'è da dire una cosa, se abbiamo un secondo, certo, che il vero problema di questa quota del detentore, oltre a individuare chi è questo soggetto, i casi che ricordavamo prima della badante, del convivente di fatto, è che spesso si tratta poi di pochi euro, soprattutto se la quota è del 10%, quindi un'altra verifica importante che deve fare il contribuente è quella di andare a vedere qual è la soglia minima che il comune ha stabilito di esenzione, esatto, diciamo non è un'esenzione, c'è una soglia per cui al di sotto di un certo importo il comune ti esenta dal versamento. Normalmente, se il comune non ha previsto nulla di specifico, è 12 euro in base a una vecchia legge del 96, ma in molti casi i comuni hanno abbassato, certo, questa soglia a 5 euro e così via, e questa cifra non si trova nella delibera, si trova nel regolamento, che è un atto, certo, diverso. In molti casi è pubblicato nella stessa sezione del sito, il regolamento TASI, ma ci sono anche dei comuni che hanno fatto un regolamento unico per TASI e IMU, o per TASI, IMU e TARI, quindi la complicazione, benissimo, aumenta, soprattutto quando ci sono cifre piccole. Abbiamo terminato questa parte dedicata alla TASI. L'unica cosa che voglio segnalare è che questa mattina, oltre al tabloid che sarà pubblicato domani, oggi c'è un altro approfondimento anche sul sito del Sole 24 Ore, qualche paginetta dedicata proprio all'impegno fiscale per gli inquilini, quindi per chi abita in affitto in un appartamento, e viene indicato molto chiaramente che comunque se l'inquilino non paga, questa piccola evasione, sì, fiscale non ricade sul proprietario, per cui, no, ho detto correttamente? Assolutamente, sono due obbligazioni diverse in questo caso. Per cui non è che poi, ecco, noi pensiamo di farla franca in questo modo. Grazie a Cristiano Dell'Osse, Luigi Lovecchio, buona giornata anche a lei. Grazie anche a voi. E buon divertimento naturalmente con tutti i comuni e tutti i contribuenti che deve assistere. Chissà i neuroni di Lovecchio e di Cristiano come saranno infiammati, direi. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Cristiano ci saluta, lui fa poca strada, sale, esatto, solo è completo su. Il tabloid di domani è pronto? Il tabloid è pronto, se volete ricordiamo anche che, sì, da domani sarà anche online un dossier sul sito. Ottimo. E che poi da giovedì mattina aprirà il forum e quindi i lettori del Sole potranno inviare le proprie domande agli esperti. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Cuore e denari. La mia testa! Oh, la bella vita del filibustier! Eccola qua, calda, spugna! Il capitano ha un terribile mal di testa. Non bisogna far chiasso. Ed eccoci tornati insieme dopo questa prima parte di Cuore Denari. Speriamo di aver aiutato i nostri ascoltatori a schiarirsi le idee sulla TASI. E adesso sai che facciamo? Aiutiamo i nostri amici a fare chiarezza su un'altra tassa che non ha a che fare con i denari, ma pesa lo stesso sulle nostre teste e limita sensibilmente la qualità della vita di chi viene colpito da questo problema, quello del mal di testa. Sì, hai ragione Deborah, perché chi lo conosce vorrebbe proprio evitarlo. D'altronde è una compagna di vita che spinge a rinunciare spesso alle attività sociali, agli svaghi, alle vacanze, ai weekend fuori porte, che rende anche il lavoro ancora più faticoso. Il vero problema però è che spesso chi soffre di mal di testa non sa dare un nome al suo problema. Allora che fa? Si attrezza peggiorando spesso la soluzione, oppure che fa? Si rassegna, dice intanto per il mio problema non c'è soluzione. Oggi abbiamo in linea con noi il professor Piero Barbanti, che proprio come Cristiano Dell'Osse ha fatto con la TASI, ci darà istruzioni e suggerimenti e ci presenterà novità molto interessanti che sono emerse da un convegno che si è svolto proprio in questi giorni a Copenaghen. Intanto buongiorno al professor Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Bentornato. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati tutti. Professore, iniziamo a capire di che tassa stiamo parlando. Il mal di testa è un sintomo, una malattia, una scusa? Partiamo dalla fine, non è una scusa neanche per i bambini che quando hanno mal di testa vanno ascoltati senza timore e seguiti. Può essere un sintomo, ma molto raramente, per esempio ho la febbre, per esempio ho un picco di pressione, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono inutili prove tecniche di trasmissione, e cioè un cervello ipereccitabile che segnala pericoli che non ci sono, perché il dolore serve a segnalare i pericoli, oppure gli emissari del cervello, i suoi nervi periferici, il trigemino, il nervo grande occipitale, che scoppiettano allegramente come ciocchi dentro il camino, ma non è successo nulla. Quindi un'inutile prova muscolare, che è la prima malattia del mondo, fa soffrire l'intero genere umano. Professore, tra l'altro con una grande varietà, sono stati censiti 223 tipi di mal di testa. Hai presente? Ci sono alcune forme che sono più frequenti negli uomini, altre che prediligono le donne. Ma professore, quando scoppia la testa, che succede nel nostro cervello? Insomma, oltre al danno, perché il mal di testa è davvero fastidioso, rischiamo di avere anche la beffa? È possibile in sostanza che il mal di testa produca danni a livello cerebrale ed essere, che ne so, responsabile, la butto lì, di una diminuzione delle facoltà cognitive, quindi alterare i meccanismi dell'attenzione o quelli della memoria? Beh, intanto tranquillizziamo i nostri ascoltatori che temono spesso che scoppi la cosiddetta vena in testa. Questo per fortuna non avviene quasi mai. Ricordiamo che il presidente Andreotti era un famoso cefalalgico e quindi la risposta alle facoltà cognitive è già fatta, non c'è questo rischio. È però vero una cosa per chi soffre di mal di testa ripetuti, che da un punto di vista neuroradiologico si vede che soffre. E da che cosa si vede? Si vede dal fatto che spesso queste persone, se fanno la risonanza, si allarmano per dei piccoli segnetti che vengono descritti dai radiologi, che altro non sono che le firme dell'attacco emicranico. Cosa vuol dire firma? Avete presente cosa succede a scrivere su una scrivania con il foglio senza sotto il blocco? Rimane solida e valida lo stesso, ma vista contro luce si capisce che qualcuno ha scritto senza poggiare sotto qualcosa, e questo succede forse per fenomeni ossidativi nel cervello del cefalalgico, specie dell'emicranico. Quindi hanno dei segnetti, che però è la prova, non so, è la firma del mal di testa. Mm-hmm. Prima di andare da Alessandro da Verona. Sì, professor Barbanti, poi naturalmente lo ascolteremo, perché abbiamo invitato i nostri amici da casa a raccontarci la localizzazione del dolore, l'intensità e la durata, ma anche le attività o le situazioni che scatenano l'attacco di mal di testa. Esistono anche mal di testa causati persino da cose piacevoli come il sonno, l'attività sportiva e anche il sesso. È vero, professor Barbanti. È vero, sì, e ci sono anche quelli scatenati per esempio dalla tosse. È importante, la risonanza magnetica che spesso il paziente vuol fare, la si fa in realtà fotografando il proprio attacco. Diciamo ai nostri ascoltatori, spiegate il mal di testa come spieghereste un attacco d'ansia, con tutti i dettagli, come vi comportate durante l'attacco, dovete stare fermi, dovete stare al buio, vi svagate. Avete nausea? Esattamente, vi dà fastidio la luce? Potreste dire che avete in testa come una morsa o piuttosto un cuore che batte? Ebbene, tutto questo consente al clinico di fotografare il mal di testa, di dargli un nome e nella maggior parte dei casi di dargli anche un trattamento specifico. Ad esempio, un ascoltatore al 349-238-6666 ci dice: mal di testa dalla mattina appena sveglio per 4 ore, zona sopra il sopracciglio. Manca anche qualche altro dettaglio, vero professore? È un po' scarno. Bisognerebbe sapere quanto è forte, come si comporta e se ha altri sintomi, però potrebbe venire in mente per esempio ad un'emicrania. L'emicrania alcune volte abortisce da sola, nasce tipicamente al mattino, il paziente non se ne riesce a fare una ragione, però dopo aver fatto colazione, dopo aver preso magari il caffè, che può essere un abortivo del mal di testa, mettendosi in moto, magari anche muscolarmente parlando, passa. E insomma, direi che sono un po' insufficienti gli indizi, ma io mi lancio in un'ipotesi. Alessandro da Verona, ce la fa fare la sua domanda in 20 secondi, poi le rispondiamo dopo il giornale radio? Sì, sì. Prego. Ecco, io da quando sono nato praticamente soffro di una emicrania con aura in sostanza, è una cosa congenita che ha anche il mio papà, il mio nonno, eccetera. E mi comporta disturbi di vista e a seguire mi rilascia un mal di testa proprio nella zona retrofrontale, ecco. Per cui volevo sapere se ci sono delle novità. E novità interessanti sono emerse dal convegno di Copenaghen, ne parliamo dopo il GR, restate e chiamate. Cuore e denari. Dottor Cox? Ed eccoti qua. Come dici? Mi stavo chiedendo se ci fosse qualcosa in grado di trasformare il mio mal di testa in una potentissima emicrania e... eccoti qua. Ed ecco... Eccoci qua, Cuore Denari, Deborah e Nicoletta, bentornati. Dove, come, quando parliamo del mal di testa, può venirti a trovare ogni mese, succede spesso a noi donne, oppure comparire a fine giornata quando siamo particolarmente stanchi, nel weekend, quando abbiamo dormito bene o troppo, a ciascuno il suo, ma diamogli un nome, facciamolo. 800 24 00 24, abbiamo questa straordinaria opportunità di avere in linea con noi il professor Piero Barbanti, approfittiamone. Professor Barbanti, Alessandro da Verona ci raccontava del suo mal di testa con dovizia di particolari, questo è il primo passo. Sì, l'emicrania con aura è una forma di emicrania tipicamente genetica, infatti ne soffrivano, lo soffrono i suoi familiari. Che cosa succede? Problemi di circolazione cerebrale? No, è una corteccia del cervello troppo eccitabile, lo dicevamo prima, che scoppietta, lancia scintille in assenza di stimoli, e queste scintille che procedono dal lobo occipitale in avanti prima o poi beccano la terminazione trigeminale ed ecco che parte l'attacco. Come curarlo? Se l'emicrania con aura, come nella maggioranza dei casi, è sporadica, qualche volta in un anno, non c'è bisogno di curarla. Se viene almeno una volta al mese, ci sono rimedi naturali, il ginkgolide B, per esempio, con derivato del ginkgo biloba, o per forme più complesse la lamotrigina, che è un antiepilettico molto ben tollerato, ma questo lo deve dire il medico. Certo, certamente, evitare il fai da te, perché molte persone, come si dice, si attrezzano, si curano, senza dimenticare che questo atteggiamento potrebbe davvero peggiorare la situazione. Ci sono anche dei mal di testa da farmaci. È vero, ci sono mal di testa da farmaci che sono particolarmente complessi, perché il paziente spesso va a scovare i farmaci che curano il mal di testa e curano i nervi un po' scossi, li chiama mal di testa frequenti, e quindi diventa una piccola droga, perché fai un viaggio due servizi, hai la testa che non ti fa male e i nervi meno tesi. Visto che Cuore Denari è una trasmissione anche di economia, ricordiamo che il paziente spesso spende un sacco di soldi o li fa spendere allo Stato facendo esami inutili e visite inutili. Per il mal di testa ci vuole il neurologo. Io sono neurologo e sono di parte, ma questo occorre fare. Evitate altro tipo di giri. E invece approfittate del nostro numero verde 800 24 00 24, il professor Barbanti ci aggiornerà sulle novità di quelle che sono emerse in questo convegno che ha riunito i massimi esperti a Copenaghen, ma dobbiamo dare la precedenza anche ai nostri ascoltatori. E infatti lo facciamo con Anna da Catanzaro, che peraltro introduce anche un tema che interesserà molte delle amiche di Cuore Denari all'ascolto. Molte arrivano infatti messaggi dalle nostre amiche, perché il mal di testa ha un debole per noi donne. Ma Anna, buongiorno. Buongiorno, io vi ringrazio per questa opportunità. Il mio mal di testa, ho 54 anni, soffro da sempre di mal di testa e questi sono andati via via peggiorando negli ultimi 4 anni circa, cosa che io attribuisco alla menopausa. Il peggioramento sta sia nella frequenza che nell'intensità, e l'effetto, come ho sentito dire prima al professore, è proprio quello della morsa, sulle tempie, sulla fronte, addirittura sulla faccia, con una particolare localizzazione su un occhio e intorno all'occhio. E quando arriva proprio ad essere tremendo, mi porta anche nausea e qualche volta vomito. Mi produce difetti di concentrazione, molto nervosismo, insofferenza, mi dà fastidio la luce. Allora, quello che ci descrive Anna ci hanno descritto molte ascoltatrici, sì. E quindi, professor Barbanti, una parentesi al femminile. Sì, solo un commento a quello che dice Anna, è abbastanza bizzarro, tutti sanno che l'emicrania passa con la menopausa, no, tutti sanno cose sbagliate, un terzo dell'emicrania in menopausa peggiora, ma cosa è successo verosimilmente? Quando gli ormoni, che sono elementi provocatori, scatenanti nella donna, passano il testimone all'ansia o alla depressione, o a circostanze stressanti o all'ipertensione arteriosa. Allora invito Anna a pensare se uno di questi fattori si è scambiato con l'ormonalità, e questo spiegherebbe perché si è cronicizzata. Riconoscere il fattore che è cronicizzante è importante per trattarla bene. 27 cure preventive certificate, l'emicrania si cura sempre. Professore, abbiamo anticipato che ci sono buone novità che potrebbero cambiare l'approccio al mal di testa, perché potrebbe ridursi la frequenza degli attacchi, la durata e quindi il ricorso ai farmaci. Sembra un po' l'uovo di Colombo. Andando a stimolare i nervi periferici, che possiamo paragonare a dei fili elettrici, qui invece che l'elettricità scorre il sintomo doloroso, sembra insomma che l'ultimo grido nella cura del mal di testa sia questa stimolazione elettrica dei nervi, della testa e del collo. Insomma, è un po' strano, professor Barbanti, lei ci spiegherà, ma com'è possibile? Si è passato dal massaggio alle tempie al supplizio di Tantalo? Forse aveva ragione Scribonio Largo, che nella Roma del primo secolo d.C. metteva la torpedina, che è quel pesce, no? Che dà la scossa sul capo di chi aveva il mal di testa. Siamo tornati indietro? Beh, intanto questa è una grande novità, non deve essere visto come un miracolo, ma come un'arma in più in chi non risponde ai farmaci, a chi ne prende troppi e vuole ridurne l'uso, o in chi necessita un po' di orientamento, permettetemi il nome, un po' bio, un po' refrattario all'idea di usare il farmaco. Cosa succede? Il cervello è il mandante e i nervi periferici sono i suoi esattori o killer, chiamiamoli come volete. Sì. Due in particolare, il trigemino e il nervo grande occipitale. Se tu parli a loro con delle scossette, intende la suocera, cioè il mandante che è il cervello, e questa è la base della stimolazione del nervo sovraorbitale e grande occipitale. Ma il dato sensazionale che è emerso a Copenaghen è che stimolando il nervo vago, che è vago di nome ma non di fatto, che sta sul collo a destra, con un dispositivo portatile, perché noi parliamo adesso di stimolazioni non chirurgiche, si è ottenuto un drammatico calo dei giorni di mal di testa, della forma più atroce di mal di testa, che è la cefalea a grappolo, e cioè si è passati da 15 attacchi a settimana a 6 attacchi a settimana, considerate che possono averne 8 al giorno. E risultati analoghi si sono ottenuti nell'emicrania cronica, utilizzando questo dispositivo elettrico quotidianamente per un periodo di alcuni mesi. Qual è la morale di questa storia? Non più solo farmaci, ma anche stimolazioni sopportabilissime, non dolorose, non chirurgiche, di nervi periferici, nervo vago e nervi che sono sulla fronte o sul collo, utili per spegnere l'attacco o per prevenirle. Questa è una gran buona notizia. È una buona notizia, ma professor Barbanti, questo significa che l'agopuntura ci aveva visto lungo. Che cosa dice a proposito la letteratura riguardo l'utilizzo degli aghi? Molti si aspettano anche miracoli dall'agopuntura. Abbiamo visto anche quando facciamo delle puntate con Deborah, c'è chi è assolutamente a favore, chi a sentire solo parlare di aghi ci manda dei messaggi quasi illeggibili, ma ecco, all'agopuntura funziona per chi? Che cosa dicono gli studi? Allora, l'agopuntura va fatta bene e ci sono tante tecniche, non tutti purtroppo sono titolatissimi, questo non dovrei dirlo, ma lo dico perché sono sincero. Sì. L'agopuntura ha intanto un grande merito: il paziente prende spazio per sé, e le cefalee, spesso l'emicrania, sono dovute anche ad un ritmo di vita vorticoso. Insomma, io intanto mi fermo sulla mia mezz'oretta dall'agopuntore, e poi sicuramente funziona sull'emicrania, non va visto come rimedio sovrano, cioè non è che uno che non risponda all'agopuntura non ha chance, è una delle tante armi. In chi usarla in particolare? Abbiamo, come al solito, soggetti che sono poco inclini a prendere i farmaci, ma poi penso alle donne incinta. La donna incinta è vero che nel terzo trimestre sta bene, ma cosa fa l'emicranica grave nel primo e nel secondo trimestre? Può tranquillamente fare l'agopuntura, non limitata a loro, ma è sicuramente un'eccellente nicchia, un'eccellente scelta. Allora, direi di andare adesso a sentire ancora le problematiche fra le nostre ascoltatrici, perché sono ancora loro prevalentemente a chiamare. Mi è piaciuto molto quello che ha detto prima il professor Barbanti, Nicoletta. Tutte le cefalee si curano. Questo mi piace, ci piace anche molto il professor Barbanti, diciamola. Io non volevo arrivare lì, adesso, però se proprio mi inviti a dirlo. Lui ha detto sono sincero, dobbiamo essere sinceri anche noi. Certo, e molto sinceramente sentiamo Giulia, due ascoltatrici da Roma, Giulia e Loredana. Andiamo per ordine. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho chiamato perché mi sono svegliata più volte con un mal di testa localizzato a livello delle due tempie, cioè la sensazione di pressione, ma molto forte. Non ho problemi di vista, non cambia a seconda dell'illuminazione, se sto in piedi o seduta, si estende a livello del collo se muovo la testa. E questo, diciamo, disturbo è simile a quello che ho in fase premestruale, che però è localizzato a livello di una tempia sola e è meno fastidioso, diciamo. Vede, professor Barbanchi, il mal di testa sceglie noi donne, ma se è vero che nel dettagliare tutti i vari segnali noi riusciamo a venire a capo del problema, lei è molto avvantaggiato. Sì, senza dubbio, mi spingo in una così ipotesi diagnostica. Credo che Giulia, che evidentemente è emicranica, abbia alcune volte delle emicranie vestite da cefalea tensiva. Perché vestita da cefalea tensiva? Perché bilaterale, compressiva, ma perché dico emicranie in realtà? Perché lei dice molto fastidiosa. La cefalea tensiva di solito è un banale cerchio. Quindi credo che Giulia debba segnare i giorni di mal di testa, e se di questi ne ha più di 4-5 al mese fastidiose, va in un buon centro cefalee e troverà ottime cure preventive e consigli sullo stile di vita, che sono fondamentali. Allora, ci scrive Rosy, perché molti dei nostri ascoltatori ci raccontano anche come hanno risolto il problema di cui noi stiamo parlando. Lei dice che ha applicato delle, stia attento, professor Barbanti. Dica. Allora, ha applicato delle calamite nel guanciale, penso nel cuscino, e non ha più mal di testa, che le veniva spessissimo durante la notte. È possibile? Ci sono delle... Io adesso non so se Rosy sia un'autentica scienziata, però tra le novità emerse a Copenaghen, ma di cui si è già parlato, è la possibilità che l'emicrania sia trattata con la stimolazione magnetica transcranica. È un macchinario costosissimo e impone così delle forze di tipo elettromagnetico particolare. Credo che sia un caso quello di Rosy, però dà modo di parlare di una nuova frontiera, che è quella di trattare il mal di testa ancora dall'esterno, quindi non dall'interno con farmaci, mediante dei dispositivi che agiscono sull'eccitabilità del cervello. E chissà che un po' la calamita non abbia fatto da lontano qualcosa. Un'altra ascoltatrice ha scritto che tutto il suo mal di testa era provocato dalla celiachia. Una volta scoperto il problema, adesso non ha più mal di testa, per cui appunto ribadiamo il fatto, Nicoletta, se non ho capito male, che molto spesso le cause possono essere proprio totalmente distanti, no? Abbiamo capito bene, professor Barbanti? Sì, beh, oddio, ricordiamoci che la testa e il cervello è il figlio più debole dell'organismo e il più esigente. Come gira qualcosa di storto nell'organismo, fa male la testa, non fa male il cuore. Se andiamo a 4.000 metri viene il mal di testa come il mal di montagna. Quindi in questo caso è stata una cefalea non specifica, in questo caso una cefalea sintomo di una patologia oggi come la celiachia, trattabile e riconoscibile. Ma molti ascoltatori ci stanno scrivendo che mettendo un po' a punto il loro stile alimentare, riducendo, sostituendo alcuni alimenti, hanno trovato enormi benefici. La nostra dieta, il nostro stile alimentare può essere in parte la causa del nostro mal di testa? Io non mi sto riferendo alla serata in cui magari eccediamo, ma proprio l'alimentazione quotidiana. Allora, se si deve essere scientifici, direi no. Sono stati fatti studi con soggetti intolleranti e allergici ai cibi. Beh, incrociando i placebo, il mal di testa non dipendevano dai cibi. Cosa però si può dire? Innanzitutto che il digiuno è il terzo fattore scatenante. L'emicranico mangi spesso, si tenga una caramella in tasca, che può bastare a curare, diciamo, l'ipoglicemia magari verso l'ora di pranzo. E poi c'è maniera e misura, grandi abbuffate scatenano il mal di testa non perché hai mangiato il maiale o l'insaccato, ma perché era grande l'abbuffata. E poi un altro elemento, dalla tavola dei cibi vietati adesso si è passato alle tavole dei cibi consigliati, cioè sostanze che contengano la riboflavina, cioè la vitamina B2 e il coenzima Q10, non sono un nutrizionista ma posso dire senza dubbio molti ortaggi, e verdure a foglia larga, servono addirittura a prevenirla. Quindi rivoluzione copernicana, al centro non c'è il divieto ma il consiglio. Questo ci piace un po' come i consigli che diamo a Cuore Denari. E allora un'ascoltatrice mi dice: perché Nicoletta dice mia bella donna di denari? Ascoltatrice o ascoltatori? Deborah, perché Deborah è bella? Direi bellissima. Vai, bella donna di denari. Molto bene. Loredana o Andreas? No, uno dei due. Esatto, dobbiamo questa volta non rispettare la questione della cavalleria, perché Andreas in realtà suffragava un po' le indicazioni sul rapporto tra mal di testa e abitudini alimentari. Andreas, se ce la fa ad essere veloce, chiama dalla Bella Fermo, buongiorno. Ah, è per questo, sa, perché c'è Fermo di mezzo. Veloce, veloce, grazie. Sì, diciamo che io mangiavo le pasticche contro il mal di testa come le caramelle praticamente, non potevo uscire di casa senza avere una scatoletta con me. E niente, ho cambiato una piccola abitudine alimentare eliminando i carboidrati a cena. Niente pasta, patate, pane, dolcetti, niente. E da lì in poi l'ho quasi dimenticato il mal di testa. Visto. Oltre a dimagrire. Oltre a dimagrire, forse anche il sovrappeso ci mette lo zampino, professor Barbanti. Beh, sono oggi tutte telefonate che danno veramente la palla sul piede destro alla persona di turno. Perché un'altra delle novità emerse negli ultimi tempi è che la dieta chetogenica, che non va fatta fai da te, ma è una dieta in cui vengono aboliti i carboidrati, può essere una tecnica di prevenzione dell'emicrania. Quindi anche Andrea riferisce una esperienza empirica personale che ha invece una solida base scientifica. Ma per gli ascoltatori voglio ricordare di mangiare carboidrati in generale, perché il cervello li ama. L'emicranico poi vedremo, ma insomma non fate mai privazioni fai da te. Però è quello che dice Andrea, ha una base scientifica. Grazie professor Barbanti, torni presto a trovarci, la ringraziamo per essere stato con noi, come Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Marco Lombardo e Laura Vanossi. Laurina Vanossi che... in redazione. Benissimo, noi ritorniamo naturalmente domani con un grande ospite di Cuore e Denari, ma non lo sveliamo, e domani... Vi metteremo degli indizi sulla nostra pagina Facebook. Bene, a domani.